Muro fucsia vino bici, muro fucsia vino bici. Muro fucsia vino bici, muro fucsia vino bici. Mamma ti ho rubato tutti i soldi dalla borsa, vado a Buduk. E ho sparato per due giorni in sala giochi sugli sterni degli zombie. E stecche di biliardo sulla schiena, in viale Heartless è un husky delle acciaierie. Il mare è un Doberman, il porto una tazza di latte freddo. Rossetto di stelle che ci si veste e lavora, e i suoi sogni hanno trovato un giornalino porno sul fiume. E il mio cuore è un pipistrello ubriaco, ho le Reebok che brillano e ribrillano, quattro sacchetti sul parcheggio dell'aeroporto.